Mannaggia, viva la Vucciacca, forza Napoli, schivi di Bobbi. Allora, tutto tace, non c'è nessuno in radio. Franco, ci sei Franco? Gio Maria, ci sei Gio Maria? Gli auguri di Gudugunnuga, Coromeo, veneminde per la mia. Ancora gatti, hanno detto quanto faccio il raffiato a seduttore in mezzo a un campo di cazzoffa, bastardo di merda. Vabbè, corre, su corre voi, oh yeah, ecco qua, fruscia. Ma secondo voi è più buono la fettina di cavallo o la fettina d'asinello? Corri, somarello. Quindi che è più buona, la fettina di cavallo o la fettina d'asinello? Corri, somarello, che tutti quanti accendiamo il fornello. C'è qualcuno che lo sa su questa radio? Si sente un bel di silenzio, non si capisce proprio niente. Magari sono tutti indaffarati per fare la cena. Bettina sei due. Scusatemi ragazzi, ma devo scaricare un po' di tensione devo scaricare. Queste giornate strane, ambe, fredde di quest'inverno, sono una cosa terribile per me, una cosa terribile. Mo' provo a bermi un bel tè frustea, con le caratteristiche di tè alla pesca e rosa, tè nero, buono è tè de come barisia, e se no te ne biasi che... Comunque è un bel buono, Non è pungente e asprente come il Lipton.